Il ragazzo stava controllando la ribalta, e era tra la ribalta e il muro, improvvisamente il camion non era frenato, è partito e gli ha schiacciato la testa tra la ribalta e il muro, quindi un incidente, una morte insomma, proprio bruttissima e insomma, che ci danno l'idea della necessità di intervenire immediatamente sulla sicurezza sul lavoro, perché se è vero che abbiamo avuto un sacco di morti per il Covid, è altrettanto vero che ci sono un sacco di morti anche per le condizioni di lavoro, nei magazzini e non soltanto nei magazzini. Cioè la questione della sicurezza, che ha sempre avuto un rapporto piuttosto contraddittorio con i lavoratori, che spesso messi alle strette tra la scelta della sicurezza e il pane hanno scelto il pane, è però una questione che non è più rimandabile. E quindi insomma è chiaro che noi abbiamo la necessità di intervenire immediatamente. C'è anche una questione di fretta nel lavoro? A volte la fretta sono le modalità del lavoro, e perché ovviamente anche lì, seppure diciamo è una questione che non sta nei fatti, ma sicuramente il numero di colli che devono muovere diventa sempre più alto e quindi le sicurezze invece diminuiscono. E in ogni caso noi ci apprestiamo a convocare uno sciopero di un'ora in tutto l'interporto. Come immagino che il problema non riguardi solo l'SDA, riguardi tutto il settore. C'è un problema complessivo che riguarda tutto il mondo del lavoro, che riguarda la logistica, ma che riguarda le aziende metalmeccaniche, chimiche, basta pensare all'ILVA, basta pensare alla Montes, insomma ci sono una serie di interventi sulle sicurezze che non possono più essere rimandabili e quindi ovvio noi naturalmente oggi faremo uno sciopero, dopodiché insomma valuteremo come affrontare più seriamente questa questione.